La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, buona domenica a tutti in questa puntata domenicale che si apre con il commento sulla assegnazione dei leoni e dei premi del 67esimo Festival del Cinema di Venezia, della Mostra del Cinema di Venezia. Sapete tutti ormai come è andata in Laguna con il Leone d'Oro a Somewhere di Sofia Coppola, con i doppi premi al film di Alex de la Iglesia, Ballada triste de trompeta, ovvero migliore sceneggiatura, Losella per l'apporto tecnico, come viene definito in gergo, e Leone d'Argento per la miglior regia all'esuberante Alex de la Iglesia. E poi il doppio premio anche a una vecchia volpe come Jerzy Skolimowski, che ha portato a casa il premio speciale della giuria con il suo Essential Killing, ma anche indirettamente il premio per il miglior attore, la Coppa Volpi maschile, per Vincent Gallo, protagonista di questo film. E poi, per completare i premi maggiori, la Coppa Volpi femminile alla quasi sconosciuta Ariane Labed del film greco Attenberg. E allora, questo è un po' il quadro dei premi. Ci sono tante analisi che si possono fare, che vogliamo fare qua in sede di commento alla Rosa Purpurea. Lo facciamo con un'amica di questa trasmissione, Piera De Tassis, direttore del mensile Chuck, che è in collegamento con noi. Ciao Piera, buona domenica anche a te. Ciao, buona domenica a tutti. Allora Piera, da dove partiamo? Partiamo dal Leone d'Oro, anche perché noblesse oblige. Somewhere di Sofia Coppola, un film che provocatoriamente si potrebbe dire ha convinto più prima di essere visto che non dopo, nel senso che poi dopo qualcosa sembrava essersi smagliato. Invece Quentin Tarantino, nell'assegnarlo, ha davvero parlato di una giuria convinta sin dal primo momento, sin dalla prima scena, e di un film che cresceva di giorno in giorno e che ha trovato la giuria unanime nell'assegnare il Leone d'Oro. È tutto così? Beh, insomma, se lo dice Tarantino non abbiamo modo di dubitarne, non penso che potremo fare ulteriori investigazioni. Rimarrà su questa posizione? È possibile, e succede di tutto nelle giurie, come sappiamo ormai benissimo. Certo, hai ragione tu quando dici che è un film che ha convinto prima di vederlo più di quanto non abbia convinto dopo averlo visto. C'è stato molta stampa attorno, tutti l'attendevano, anche perché in qualche modo, diciamolo, c'era l'effetto Lost in Translation, si capiva che era un film che andava più in quella direzione, e quindi ricordo l'idea, eccetera. In realtà è un po' Lost in Somewhere, cioè da qualche parte. È un film, personalmente sono fra quelle meno convinte, la sala mi pare abbia reagito un po' con il dissenso, mi pare un po' costruito e un po' esagerato questo Leone d'Oro, ecco, francamente, perché è un film che non si alza e non si solleva da un racconto minimale, corretto, non sbagliato, senza grandi errori, però insomma senza una vera anima forte. E vedremo come reagirà anche il pubblico. Ricordo che il film è nelle sale italiane dalla scorsa settimana, una partenza a dir poco lenta, quella di Somewhere, che ha fatto poco meno di 500.000 euro il primo weekend. Però ecco, ti chiedo Piera, i festival, tu sei esperta nel settore, servono ancora anche a questo? C'è una spinta da questo Leone d'Oro arrivato di sabato sera, potrà arrivare? Beh, io penso che comunque il Leone d'Oro veneziano a qualcosa possa servire, se il film è già in sala, se il film è di Sofia Coppola, se comunque insomma è un autore riconosciuto, anche però guarda, il passaparola vince sempre comunque sopra, quindi se il film non convince poi il pubblico, non ha una forza di attrazione in sé, può fare poco anche il Leone d'Oro, e nel passato spesso ha fatto molto poco, spesso addirittura i film non sono stati distribuiti, quindi su questo ho dei dubbi, ne avrei meno per esempio sull'effetto che Leone d'Oro può avere su Ballada triste de trompeta, perché quello è un film che in qualche modo ha, dallo sconosciuto che era, perché chi conosce a parte i cinefili Alex de la Iglesia, dallo sconosciuto che era, secondo me ha bucato, e per titolo e per quello che si è visto, per quello che è arrivato alle persone, anche a Venezia, sicuramente l'immaginario delle persone. Quindi lì potrebbe avere un effetto forte il Leone d'Oro. Certo, tra l'altro ricordiamolo, è una delle doppiette di cui facevamo accenno in apertura. Alex Della Iglesia è sempre stato un regista, tra l'altro, che ha giocato molto col genere e si è sempre molto discostato di film in film, quasi da se stesso. Però questo film, veramente a livello visivo, è forse il film che marca maggiormente questa 67esima mostra. Osella per la sceneggiatura, Leone d'Argento per la regia, come dire, per un regista è un gran bel complimento. Sì, è un gran bel complimento, anche perché mette assieme sia l'effetto stilistico, quello più puro, no? Che è l'effetto di regia, con invece anche una certa classicità, che è quella che deriva dalla sceneggiatura. Quindi insomma è proprio un premio completo, ecco, gli manca, è quasi un Leone d'Oro, diciamolo. È quasi un Leone d'Oro, effettivamente. Regolati, ma in realtà è il Leone d'Oro mancato, cosa che scriverà chiunque. Certo, certamente, anche ecco, perché da una mostra... No, scusami, voglio dire che è importante quello che dicevi tu sul genere, perché insomma questa è un po' la differenza e la sorpresa, e questo è anche l'effetto Tarantino, indubbiamente. Noi sappiamo che Tarantino l'ha amato moltissimo, tutti hanno cronometrato i suoi applausi in sala, cioè uno ha detto proprio al chi applaude e ai fischi, ormai a Venezia, e l'effetto Tarantino, perché in effetti si premia un film che non è esattamente il film che tu aspetti da un festival, no? Quindi no, questo è un bel rifiuto dell'Accademia e dell'Accademia, anche del grande autore riconosciuto, a favore di una nuova cinefilia che ormai si è affermata. Certo, e di cui Alex Della Iglesia è uno dei, probabilmente anche in pectore, uno degli esponenti anche per il futuro da tenere più d'occhio. C'è... Con delle ascese e delle cadute. Assolutamente. È un regista dispari, ma proprio per questo ci piace. E invece è un regista dispari da tanti anni, però non è proprio più un giovane, Jerzy Skolimowski, che è andato a vincere il premio speciale della giuria con il suo Essential Killing, ed ha visto premiare Vincent Gallo come miglior attore. Tra l'altro Vincent Gallo, che ha dovuto appunto in questi panni talebani recitare nel freddo dell'inverno, si è martoriato le carni sostanzialmente per essere nel ruolo, insomma una grandissima prova la sua, e anche grandissimo l'autosaluto e l'autocelebrazione che si è fatto molto ironicamente Skolimowski, dicendo: sono convinto che Vincent Gallo ringrazierebbe il regista, lo sceneggiatore e il produttore, che sono sempre io. E quindi molto divertente anche questo intervento. Insomma, Skolimowski è uno di quei registi che piacevano negli anni 70, una critica militante, ma oggi lo troviamo rinnovato, completamente rinnovato. Sì, ma questa è l'altra grande sorpresa, perché tutti, immagino, quando abbiamo letto Skolimowski nel programma, e peraltro è arrivato come ultimo film, credo, no, nell'annuncio, abbiamo pensato, siamo stati felici perché ce lo ricordiamo i grandi film, però forse abbiamo pensato tutti, vabbè, insomma è anche un omaggio a un grande autore, non ci siamo più occupati più di tanto sulla carta, vero? Assolutamente, sembrava un po' bollito effettivamente. Sì, anche se io non ho avuto la fortuna di essere stata in giuria con lui, quindi sapevo che non era bollito, anzi amato come era prima, però in effetti è stata una sorpresa, una ventata d'aria fresca che è entrata nel suo cinema, d'aria fresca anche molto gelida, diciamo la verità. E poi la cosa più bella di tutta la vicenda è che il povero Vincent Gallo, martoriato da regista, perché devo dire che è uscito a fette, no, da Venezia, che lui aveva anche un film come regista, beh, insomma, si ritrova sul palco gloriosamente come miglior attore. Riprendiamo la rosa purpurea. Dicevamo, andiamo in sala perché dalla Mostra del Cinema di Venezia arrivano ancora alcuni film nei cinema italiani, e noi vogliamo soffermarci innanzitutto su un film che ha già vinto qualcosa, e questo è molto importante, e che ha soprattutto convinto praticamente all'unanimità la critica e i giornalisti presenti al Lido. Stiamo parlando di 20 sigarette, film di Aureliano Amadei, che racconta il dramma della strage di Nassiriya, e quindi dell'assalto del 12 novembre 2003, nel quale rimasero uccisi 19 soldati italiani. È in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea su Radio 24 il regista Aureliano Amadei, che saluto. Buonasera ciao, a te, ciao Aureliano, grazie di aver accettato il nostro invito per parlare di questo film che da questo fine settimana è nelle sale cinematografiche italiane. È un film che è riuscito in una specie di piccolo miracolo, quello di convincere convincere tutti, di mettere d'accordo un po' tutti, anche se poi ci sono state polemiche legate alla distribuzione, alla produzione, alle influenze, alle spinte che ci sarebbero state. Ma quello che ci interessa oggi è che questo film è lì in sala davanti agli occhi del pubblico per poter essere valutato. Allora ti chiedo come ti senti. Tra l'altro, come dicevo, hai anche vinto la tua sezione, quindi sei già uscito con un premio. Oggi abbiamo, io potrei dire, abbiamo veramente sbancato. Sono lieto di annunciare in anteprima, perché siete le prime persone con cui parlo da quando abbiamo avuto questa conferma. Abbiamo preso anche il premio Pasinetti, che insomma è un premio collaterale di Venezia, ma assolutamente prestigioso. Mi sono andato subito a vedere i miei predecessori e sono veramente nomi da spaventarsi, insomma, per cui e come dicevi tu, il film ha veramente messo d'accordo tutti. Secondo me non è per niente un difetto, anzi è un grandissimo pregio. Assolutamente, a Venezia si cerca sempre c'è sempre qualcuno che cerca di mettere zizzania in qualche maniera, e invece in questo caso veramente forse tutti hanno sentito la mia grande commozione, come io mi sono veramente messo a nudo in questa storia. In qualche maniera sono anche, proprio per questo, per averla vissuta personalmente, sono riuscito a dissacrare, perché nel film forse si ride più di quanto si pianga. Certo, per cui, insomma... anche perché Aureliano, spieghiamolo anche ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno e avranno voglia di andare a vedere il film in sala. Tu quel giorno a Nassiria c'eri, ecco, raccontaci un po' questo aspetto. Io ero a Nassiria arrivato da appena 20 ore, giusto il tempo per l'appunto di fumare 20 sigarette, e mi sono trovato coinvolto nell'attentato. Ero lì per fare l'aiuto regista di un film di fiction che doveva essere girato lì. Insomma, già questo è un elemento che purtroppo ha avuto un epilogo tragico, ma sul quale si potrebbe in qualche maniera ironizzare, perché oggi come oggi possiamo ben immaginare quanto fosse assurdo andare a girare un film di fiction in Iraq, insomma. E quindi insomma hai avuto anche, come dire, un'esperienza che ti porti ancora addosso, perché hai avuto anche danni permanenti anche tu dall'attentato, ma ne sei sopravvissuto, sì. E hai voluto a un certo punto raccontarlo prima in un libro, poi in questo film. Io voglio far ascoltare ai nostri amici che sono appunto in ascolto qui alla Rosa Purpurea una clip che abbiamo tratto dal tuo film. Sentiamo. Perché poi, alla fine, questo soldato italiano, dopo una serie di esplosioni che comando io, certo, finalmente salva la ragazza irachena e se la porta con sé in Italia. Perché... E la mette a fare la colf in nero per 5 euro l'ora senza contributi? No, se la sposa. Dai, Aure, ma che è? Vabbè, la storia è un po' così, però è figo, no? No. Claudia, aiuto regista. Tu lo sai che vuol dire aiuto regista? No. Quasi regista. Sinceramente? Sì? Mi sembra una cazzata, Aure. Oh, è la solita propaganda militarista, E quella che avete sentito è una, diciamo, concreta e disillusa Carolina Crescentini, nel film, insieme a Vinicio Marchioni e al grande Giorgio Colangeli. Insomma, un cast anche importante. Che tipo di... Ma anche di talento. Ecco, ti chiedo questo brevemente, Aureliano. Che taglio, che sguardo, che punto di vista hai voluto dare cinematograficamente? Che genere, quasi, ti chiederei, hai voluto sposare per raccontare questa storia? Ma la cosa particolare sulla quale noi abbiamo avuto conferme solo dopo il festival, perché inizialmente c'erano sicuramente dei dubbi, è che il film è veramente un grande mischione di generi. Una storia così vera, così vissuta, non può essere racchiusa in un solo genere, per cui c'è un inizio che è una commedia di fatto, e la vita di questo adolescente che ha ambizioni cinematografiche viene descritta come una commedia, però lui poi si trova antimilitarista, anarchico, che si è finto gay per non fare il militare, dentro una base militare in Iraq, e lì c'è lo spaesamento, e quindi ci sono anche delle situazioni, degli equivoci, insomma. Questo spaesamento porta a una tensione, quindi un crescendo quasi thriller, che sfocia nel momento improvviso dell'attentato. A quel punto il film chiaramente esprime tutto il terrore. La sequenza dell'attentato è girata in soggettiva, per cui inchioda lo lo spettatore alla sedia senza risparmiargli assolutamente nulla, è quasi horror forse in quel momento. Dopodiché c'è una parte sentimentale, riflessiva, in cui in ospedale si vede il mondo cambiare intorno e la propria vita cambiare intorno, e si traggono anche delle conclusioni, quindi si va a sfiorare anche il film, diciamo, di contenuto politico in qualche certo, maniera. Certo, certo. E allora, Aureliano, ricordiamo, 20 sigarette nei cinema italiani da questo fine settimana, un paio di appuntamenti per chi ci ascolta e vuole incontrare Aureliano e il cast. Sabato sera alle 20:30 Cinema Eliseo a Milano, la presenza in sala del regista e degli attori, e invece domenica sera sempre alle 20:30 al 4 Fontane di Roma, quindi insomma c'è la possibilità anche di incontrare tutti. Grazie. E poi si continua Napoli, Barletta, Ancona, insomma si va avanti. Siete veramente in tournée. Allora, grazie sì. Aureliano Amadei, in bocca al lupo per 20 sigarette. Grazie a voi. E allora, noi salutiamo Aureliano Amadei, questo è il primo film che, come dicevamo, da Venezia rimbalza nei cinema italiani in questo fine settimana. Noi siamo anche in collegamento già con Boris Sollazzo, che ci ha ascoltato e che saluto. Ciao Boris. Buonasera Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ti è piaciuto 20 sigarette, sinteticamente? Assolutamente sì, più sintetico di così. Vabbè, allora sei anche tu, insomma, in questa convinzione generale che si sia trattato di uno dei migliori lavori italiani che si sono visti quest'anno al festival. Prima di sentire Boris, invece, di coinvolgerlo su un altro lavoro italiano sul cui esito è stato un po' più controverso, ovvero La solitudine dei numeri primi, io voglio farvi ascoltare la prima traccia invece del film misterioso di questa settimana, perché, come abbiamo detto anche nei titoli, torna il DVD Game, il nostro appuntamento tanto apprezzato dai nostri ascoltatori. Ogni settimana tre frammenti di un film misterioso almeno fino a quando voi non lo indovinate, e il più rapido a indovinare il sabato e la domenica riceverà poi una copia proprio di quel film, che verrà svelato ovviamente la settimana prossima insieme ai nomi dei vincitori. E allora ascoltiamo la prima traccia. È stata la sua unità ad aver raccolto le informazioni che vi fanno girare a Porto. Parla di Magellano? Chi è Magellano? Lo ha mai visto? No. Breve la prima traccia, ma ovviamente poi saremo forse un po' più generosi nei prossimi ascolti. Ricordo che si partecipa scrivendo all'indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it con anche il vostro nome, cognome e indirizzo, nel caso siate appunto i più rapidi, per ricevere a casa il Blu-ray, tra l'altro, quindi alta definizione, di questo film. Più tardi le altre due tracce. Noi a questo punto entriamo nel clima della solitudine dei numeri primi ascoltando una clip. Dimmi il tuo segreto, dimmi cosa hai fatto al braccio. Matti, vuoi davvero sapere cosa ho fatto alle braccia? Miki, hai capito? Io vado via per mezz'ora, stai qua, Sei matta. Ma sai che cosa ha fatto quello? A me piace un po'. Ma come ti piace? Uno così ti fa pezzi e ti butta in un cassonetto. Chi è la bambina? È Michela, la sorellina di Mattia. Mattia non ti ha mai parlato di Michela. Dici cos'hai? Avevo 8 anni. E allora, con la musica di Bette Davis Ice, tra l'altro anche questa tratta dal film La solitudine dei numeri primi, noi parliamo di questo film, che è un film, indipendentemente, ripeto, da come andrà in sala, cioè da aspettarsi che il pubblico sia numeroso, perché alle spalle c'è un best seller, 800.000 copie vendute in Italia, il libro di Paolo Giordano, qui c'è un regista che aveva dimostrato buone cose nei suoi esordi come Saverio Costanzo, c'è un cast che mette in scena Alba Rohrwacher, regina di questo cast, insieme alla rivelazione Luca Marinelli. Insomma, c'è sicuramente un background su cui il pubblico può poggiare. Il libro è stato, come dicevo, un grande successo, un libro molto amato, anche perché scritto con una tecnica, anche con un montaggio, mi verrebbe da dire, usando il termine cinematografico, alternato, che lasciava sempre con il fiato sospeso. Saverio Costanzo mischia un po' le carte per quanto riguarda la struttura narrativa del film. Con quali esiti, Boris Sollazzo? So che non è stato accolto in maniera unanime a Venezia. Guarda Franco, io credo che questo film ci dica due cose. Uno, che Saverio Costanzo continua ad essere uno dei migliori talenti della nostra regia. D'altronde, 3 film, 3 lungometraggi di finzione, 3 festival. Locarno vinto, Berlino ha convinto e adesso Venezia. Dall'altra parte ci dice anche che forse La solitudine dei numeri primi di Giordano per molti è un romanzo sopravvalutato. Aveva una prima parte, o meglio, come dici tu, c'è un montaggio alternato. La parte dell'infanzia dei protagonisti, che è davvero molto bella, e la parte dell'età adulta che invece lascia molto a desiderare. Cosa fa Costanzo? Riesce a rendere ancora meglio la parte dell'infanzia, anche grazie alle musiche che avete sentito. Lui crea quasi un horror d'atmosfera, pur rinunciando a quasi tutti gli elementi violenti, quindi usa le musiche dell'album Back to the Goblin, un pezzo della melodia di Morricone, dell'Uccello dalle piume di cristallo, e poi però nella seconda parte, nel libro non volevi bene ai protagonisti, non riuscivi ad appassionarti ai protagonisti, e così, nonostante la bravura di Alvar Orvacher, che è tra le candidate alla Coppa Volpi come migliore attrice, e Luca Marinelli, ovvero Alice e Mattia Tulti, non si riesce a convincere, e nel complesso finisce per essere un film non del tutto riuscito, anche se ci dice comunque che Saverio Costanzo sta andando bene. Ecco Boris, secondo te, indipendentemente, come dicevo, poi dalla struttura filmica, da quanto possa convincere il film, quanto varrà al botteghino il portato di questo film, il portato del libro, soprattutto del grande successo che ha ottenuto, quanti lettori si trasformeranno in spettatori? Io credo parecchi. Giordano si è messo alla sceneggiatura e ha avuto la furbizia e l'intelligenza di non volere la fedeltà al testo, e in qualche modo recupera lo spirito e, come ho detto, nella prima parte lo migliora. Quindi spero vivamente che poi al botteghino paghi il successo del libro, anche se potrebbe esserci un passaparola di delusione per chi l'ha amato molto, perché comunque la storia che si racconta su pagina è molto più facile che su video, quindi il rischio c'è, però sono ottimista per Costanzo. E allora vedremo se questo film salirà nelle zone alte del box office la prossima settimana, un box office che è ancora dominato per il momento da Shrek, dal suo quarto capitolo, ormai è arrivato a 11 milioni di incasso globale e primo di lunghezze rispetto ai Mercenari di Sylvester Stallone, rispetto a Giustizia privata di Gary Gray e poi a tutti gli altri via via staccati, Karate Kid, l'apprendista stregone e allo stesso Somewhere di Sofia Coppola, che come dicevo è partito con meno di mezzo milione di incasso, ma a cui Venezia potrebbe fare alla fine molto bene. Vedremo. Sicuramente La solitudine dei numeri primi è uno dei film italiani, forse il film italiano che per primo in questa nuova stagione cinematografica può infilarsi nelle zone alte della classifica, almeno nel suo primo weekend. Grazie a Boris Sollazzo e a risentirci. A presto. Sai una cosa? A volte non so davvero chi stia nella posizione più difficile. Sembrano i poliziotti a questi cazzo di criminali. Renard, cambia con 1140 e 1144. Due auto sono già sul posto. Ricevuto. Com'era l'indirizzo, ripeti? È al 105 di via Crystal, fuori da Richmond, sotto la mesa. Abbiamo due auto sul posto. Ok, andiamo a controllare. Cos'è un 1144? Un 1144 significa che c'è scappato un morto, ma molto, molto morto. Ah, ok, la cosa si fa seria allora. Camilo Barrera, con más de 1000 hombres, se levantó por la sierra. Su causa era buena, pelear por los pobres. Quello che avete sentito è il detective della polizia di San Diego, non quello che sta cantando qua, ma quello che sentivate prima in macchina, è il detective Heaven Hurst, interpretato da Willem Dafoe. È lui il protagonista di My Son, What Have You Done? Questo è il lungo titolo del film di Werner Herzog che apre la terza parte della Rosa Purpurea, finché a suo modo arriva dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma da quella dell'anno scorso. Ci ha messo un po' di tempo per trovare la via della sala in Italia. Heaven Hurst dice: dicevamo, di pattuglia con un giovane collega, ha ricevuto una chiamata. C'è stato un omicidio. Brad McCallum, un trentenne schizzato, ha fatto fuori la madre con una sciabola e poi si è barricato in casa, pare, con degli ostaggi. Sul posto arrivano la fidanzata Ingrid, Klaus Evigny, e il maestro di recitazione Lee Meyers, Udo Kier. Sì, perché il nostro poliedrico matricida studiava da attore e la cosa avrà il suo peso. Da qui il regista Werner Herzog inizia a snodare la trama del suo film. Il poliziotto interroga la fidanzata dell'assassino e il suo mentore artistico, e lo spettatore, attraverso i loro ricordi, ripercorre le ultime settimane della vita sconclusionata del killer, che è Michael Shannon, nominato all'Oscar, forse lo ricorderete, nei panni anni del matto in Revolutionary Road. Scoprirà che la personalità di Brad e il suo rapporto con Ingrid erano fortemente influenzati dall'onnipresente figura della madre. Brad, mi hai tormentato anni interi per farti comprare un pianoforte. Te l'ho comprato e tu non l'hai mai usato. Poi hai voluto la batteria. Te l'ho presa e stai lì seduto. Mamma, eri tu quella che cercava di convincermi in tutti i modi a volerli. E come dicevamo, avrà il suo peso la recitazione, perché recitando a suo modo, come sentiremo, nelle lettere di Sofocle, Brad matura il suo insano proposito. Ora io sono qui reso felice, reso folle dal sangue, trionfante, gemente. Ascolta me, te la tessuta che uccidesti il padre mio. Ah, fermi, fermi, Brad, basta, basta. Hai saltato un centinaio di battute. Ha più senso in questo modo. Tratto da una storia realmente accaduta, il film di Werner Herzog, come dicevamo, presentato a Venezia lo scorso anno, arriva nelle sale italiane 12 mesi dopo grazie alla One Movie. Grazie davvero? Sul film di Herzog, pur dotato di attori importanti e diretto con la consueta maestria visiva dal regista di Fitzcarraldo, sembra gravare un peccato originale, quello di svelare tutti i segreti della trama e dei personaggi attraverso un montaggio alternato e poderosi flashback che costituiscono la struttura stessa del film, depotenziando così però il presente narrativo. Se ci fossimo arrivati in crescendo, dopo le prime paranoie di Brad con la madre, la ricerca di una paternità culturale del matricidio nelle lettere, il suo rapporto tarpato con la fidanzata Ingrid, il suo presunto incontro con Dio in un villaggio in Perù, forse l'uccisione della madre, scena bellissima peraltro, avrebbe avuto tutto un altro peso, per non parlare di una musica onnipresente che sembra far uscire il film dal piccolo schermo del vicino di casa. Questo per quanto riguarda allora il film di Werner Herzog, My Son, What Have We Done. Noi andiamo alla seconda traccia del DVD Game di oggi. Che sta succedendo all'intelligence? Non è il caso di parlare di questo adesso. È proprio il caso invece, non trovo niente, i siti sono vuoti. Dobbiamo essere cauti, una tempesta di merda sta per abbattersi su di noi. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere il DVD di questo film. E siamo passati adesso alla quarta delle proposte che abbiamo selezionato fra i film che escono in sala in questo fine settimana. Signore e soprattutto signori, stiamo per parlare di George Clooney. Ascoltiamo la clip. Pronto? Sono Jack. Voglio uscire. Consideralo il tuo ultimo lavoro. Non premerai nemmeno il grilletto. E questa la telefonata a George Clooney, che torna nei cinema italiani nei panni di Jack, il killer protagonista di The American, film di cui si è molto parlato, soprattutto perché è girato in Abruzzo, proprio per volontà di George, che voleva dare così una mano alle popolazioni colpite dal terremoto del 2009. Beau geste, mauvais film, potremmo dire, perché, deludendo le attese, il film di Anthony Corbin proprio non sembra girare. Un cacciatore? No, loro girano in coppia, non è vero? Vieni. Vieni! Ma che succede? Hai una pistola. Perché la pistola? Tutto comincia con la scena che avete appena sentito. Jack, reduce da una notte d'amore con una bellissima donna, attraversa una landa innevata ed è oggetto di un agguato. È il clan degli svedesi che lo vuole morto, ma Jack sa usare la pistola, come avete sentito, e fredda i sicari, e non solo. Il suo capo gli offre un lavoro e una copertura. Jack dovrà stare qualche mese lontano dai riflettori, sulle colline abruzzesi. Chi era la donna? Un'amica. Un'amica? Chi erano gli svedesi? Ci sto lavorando. Servirà un po' di tempo. Ha teso lei l'imboscata? Lei non c'entrava niente. Peccato. Non puoi stare qui. Ti ho trovato un posto fuori città. Intanto io metterò a posto le cose. Gira a destra all'uscita del bar. Poi la seconda a sinistra. Via Magenta. Troverai una macchina blu notte e una Fiat Tempra targata Pescara. Ti ho segnato un piccolo paese sulla mappa. Castelvecchio. Rimani lì, nell'ombra, finché non ti chiamerò. Non parlare con nessuno. E soprattutto, non fare amicizie, Jack. Una volta lo sapevi. Jack entra nella vita di Castelvecchio in punta di piedi, ma non si può proprio dire che la sua presenza non si noti. Bello, misterioso, americano. Fa subito amicizia col parroco, Paolo Bonacelli, e si innamora di una prostituta, Violante Placido. E intanto, nel chiuso della sua casa, costruisce un fucile di precisione, grazie ai pezzi recuperati da un meccanico, cameo di Filippo Timi. Così ci si chiede, com'è che quando gli svedesi lo raggiungono in Abruzzo per farlo fuori e lui ne accoppa un paio, nessuno sospetta di Jack? Com'è che nel giorno della processione qualcuno cerca di ucciderlo ancora? Jack spara in mezzo ai santi e ai rosari e nessuno lo insegue? Com'è che mentre scappa dal paese in macchina incrocia i carabinieri che non lo fermano? Insomma, come avrete capito, è soprattutto la sceneggiatura che fa acqua da tutte le parti. Si vede che Rowan Joffé, che l'ha tratta da un romanzo di 20 anni fa, A Very Private Gentleman di Martin Booth, è qualcuno che l'Italia non la conosce affatto. Un personaggio come Jack in un paesino della provincia italiana sarebbe un pugno in un occhio, per non parlare di una prostituta così, che non passerebbe inosservata nemmeno in una metropoli. Ed è un peccato, perché lo stile di Anton Corbijn, grande esperienza nei video musicali di concerti dal vivo, è asciutto, claustrofobico, la luce livida, i silenzi preferiti alle parole, ma serviva un'altra padronanza della narrazione e forse anche un attore un po' più tormentato. E allora, questo per quanto riguarda The American. Noi, a proposito di American, passiamo in America, perché ci spostiamo alla nostra vetrina Trailer USA, che vi fa ascoltare in anteprima i suoni originali dei trailer delle novità americane. Oggi parliamo di The Romantics, film che vede come protagonista Katie Holmes, la moglie di Tom Cruise, e che la vede nei panni di una damigella d'onore che custodisce un segreto. Ma sulla trama sentiamo Micaela Bellisario. Sì, ciao Franco. Katie Holmes in effetti è davvero una damigella un po' pericolosa in questo film. La storia è questa: insieme ad altri 7 amici del college si ritrova 6 anni dopo al matrimonio di Lila e Tom, la coppia più bella e promettente dell'università. Il loro sarà un weekend pieno di momenti esaltanti, ovviamente, di momenti di nostalgia, voglia di ritrovarsi. In questo passo del trailer sentiamo quindi Katie, che nel film interpreta Laura, riabbracciare i vecchi compagni universitari e brindare al matrimonio della coppia. Yeah, how do I get back to New York? Hi, mamma. Hi. You're beautiful. Tomorrow is going to be fantastic. That is, if they even make it to the altar. Cheers to that, huh? Alla vigilia del matrimonio succede naturalmente di tutto. Come nelle migliori commedie, escono fuori i veri sentimenti di rivalità, amicizie, amore. Tutto quello che temeva, insomma, Lila, accade. Ovvero Tom capisce di amare ancora Laura, ovvero Katie Holmes, la damigella d'onore. Avevano avuto una storia infuocata ai tempi dell'università. Durante un bagno notturno i due si ritrovano ai margini del giardino, si baciano e si ritrovano. Nessuno dei due aveva dimenticato l'altro. Ma come andrà a finire ovviamente non possiamo svelarvelo, possiamo però farvi sentire in questo passo del trailer l'incontro romantico tra Laura e il promesso sposo. Nobody knows that I'm out here. Exactly. Yeah, nobody knows that you're out here. What's your point? Or maybe we can just hang out for a minute. Ed eccoci insieme alla parte conclusiva della Rosa Purpurea, che sposta il teatro delle proprie attenzioni da quello dalla grande sala, il nostro mito, quello del cinema in sala, mito intoccabile, ma sappiamo benissimo che molti poi i film li vedono anche a casa, forse li possono anche vedere spesso, più spesso a casa, e allora noi andiamo a darvi segnalazioni di buon cinema anche per le vostre visioni private, come sempre cominciando dalle proposte televisive della prossima settimana. settimana quali grandi film potete vedere, rivedere, registrare, recuperare in TV in chiaro e gratis. Questa è la nostra policy. Lo facciamo come sempre con gli amici del settimanale Film TV, che ci raccontano, ci raccolgono una perla, un fiore nella programmazione cinematografica della settimana successiva. È il caso di questa settimana, sentiamo cosa ha scelto per noi Sara Sagrati. Bentrovati e buongiorno Franco, eccoci qui con un film assolutamente scandaloso e imperdibile. Si tratta di Caos Calmo di Antonello Grimaldi, che andrà in onda venerdì 17 su Rai 3 in prima serata alle 21.05. Scandaloso e imperdibile perché se ne parlò tantissimo alla sua uscita cinematografica per una scena hard tra Isabella Ferrari, la biondissima Isabella Ferrari, e Nanni Moretti, che sicuramente è l'ultima persona da cui ci potevamo aspettare una complesso sul divano con tante interpretazioni possibili. In realtà però il film parla di tutt'altro, un film che racconta l'elaborazione del lutto da parte di un uomo che rimane vedovo con una piccola figlia decenne. La accompagna a scuola e rimane di fronte alla sua scuola un giorno, e questo parchetto diventa un po' il suo luogo dell'anima, il luogo dove imparare nuovamente a vivere nel mondo da solo con sua figlia. C'è quindi una componente assolutamente emotiva molto forte. Sava Sandir, però ci ricordiamo tutti qualcos'altro. Imperdibile comunque, proprio per farsi una propria opinione su Moretti in versione hard. E con questo è tutto, ci risentiamo la prossima settimana. E allora con Moretti in versione hard, addirittura, come dice la nostra Sara Sagrati, da Film TV, noi vi ricordiamo l'appuntamento, è la prima TV in chiaro per quanto riguarda Caos Calmo, venerdì 17, giorno mitico e cinematografico anche questo, su Rai 3 alle 21.05. E allora noi siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia misteriosa della DVD Game di oggi. Allora, abbiamo convocato l'Assemblea di Libertà per l'Iraq domani, qui all'interno della Green Zone. Noi contiamo che vengano i rappresentanti di tutte e tre le principali etnie del paese. Beh, più bravi di così non potevamo essere, anche se qualcuno probabilmente ha già indovinato di che film si tratta. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, partecipate perché c'è da vincere il Blu-ray, anche se, come ripeto, mi sa che le cose sono già state fatte sulla prima traccia che vi abbiamo presentato. E a questo punto, visto che siamo entrati in clima ancora una volta di home video, noi siamo in collegamento con il nostro recensore di home video, Claudio Pofi, che è in ascolto. Ciao Claudio. Eccoci Franco, ciao. Ciao Claudio. Allora, abbiamo preparato tre clip e tre recensioni di film davvero gustosi questa settimana. Io comincerei con quello che è un assoluto capolavoro della commedia italiana, uno dei film simbolo del nostro cinema migliore, del nostro modo migliore di saper fare cinema e di saper raccontare l'Italia attraverso la commedia. Stiamo parlando di Un americano a Roma, ascoltiamo. Nando, firme. Guarda. L'hai visto sto film? È la storia di un giovane americano che per ottenere quello che il mondo non gli voleva dare, sì, proprio come te, Anna, una mattina ha preso ed è salito sulla cima più alta di un grattacielo. Si è piazzato lì e ha detto: io me butto se non mi date quello che voglio. Che stai a pensare, Anna? Ti è venuta un'idea? Ci vuoi provare pure tu? Nell'Italia del dopoguerra i giovani vivono col mito dell'America, la vita di Nando, spiantato scansafatiche, è un inno all'America, tutto è visto, vissuto, interpretato, sognando quel lontano paese. Nonostante la sfortuna, Nando è disposto a tutto pur di riuscire a raggiungere gli Stati Uniti e così, ispirandosi al film americano La 14ª ora di Henry Hathaway, raggiunge la cima del Colosseo minacciando di uccidersi se non riuscirà a realizzare il suo viaggio. Il film cult di Stefano Lanzina, sordi, mattatore assoluto in questa satira feroce sui costumi nell'Italia del dopoguerra, pellicola restaurata e riedizione grazie a Replay on Video in Blu-ray alta definizione, restituendo immagini piene per una visione nettamente superiore al DVD. Tra gli extra segnalo immagini di repertorio dell'epoca e due fresche interviste a Enrico Vanzina e Carlo Delle Piane. E noi andiamo al 1964, saltiamo avanti di 11 anni, quando il regista spagnolo Luis García Berlanga, su sceneggiatura cofirmata da Ennio Flaiano, peraltro, fotografia di Tonino Delli Colli, quindi c'era anche molta Italia in questo film, firmava una pellicola che si intitolava El Verdugo. In Italia uscì col titolo La ballata del boia, tinte fra il noir e quasi un western ispanico. Sentiamo. Vedi, tu rappresenti la legge Yankee e non piace affatto al generale Verdugo. Non ci lasceranno andar via. E allora perché non paghi per fuggire? Se ti ammazzano quei soldi non ti serviranno. Ma io non ce li ho i soldi. La banca dice di sì. Ah, va bene, li ho rubati io, ma li ho spesi in due giorni. Come hai fatto a spenderli? Fucili. Fucili? 100 fucili per gli indiani Yaki. Joe è un mezzosangue indiano che rapina una banca in Arizona per comprare armi e aiutare i suoi fratelli Yaki a combattere il generale messicano Verdugo, che riesce ad arrestarlo grazie all'aiuto dello sceriffo di colore Leidecker. Anche il tutore della legge però finirà prigioniero del folle ufficiale, che deciderà di fucilare entrambi. Riusciti a fuggire grazie all'intervento proprio degli indiani, i due si uniranno alla rivoluzione per combattere Verdugo. Inedita pubblicazione da Koch Media su DVD per un western coinvolgente con 3 interpreti d'eccezione come Jim Brown, Raquel Welch e Bart Reynolds. Buona la qualità video delle 2 tracce e 2 canali italiano-inglese, la migliore è l'originale. Come extra è presente il trailer. Chiudiamo in commedia recente, siamo a Il cacciatore di ex, coppia d'oro di questo genere di film per l'America contemporanea come Jennifer Aniston e Gerard Butler, per un film che appunto ci racconta tutto il peso degli ex. Non pensavo che sapessi tutte queste cose di me. Certo, eravamo sposati. Ma adesso però amo essere single e amo proprio tutto della mia vita. Un ottimo lavoro, dei buoni amici, una fidanzata super maggiorata. Fidanzata? Lo sapevi? Sì, ho avuto un bel po' di relazioni folli esclusivamente per il sesso quando abbiamo rotto, ma ora penso di aver trovato la persona giusta. Cacciatore d'Italia ai giorni nostri, Milo è esperto nell'assicurare la giustizia a latitanti che hanno evitato la prigione grazie al pagamento della cauzione. Perseguitato dalla sfortuna, pensa di vivere il giorno più bello della sua vita quando è incaricato di inseguire Nicole, ex moglie e giornalista coinvolta in una indagine pericolosa. Dallo stesso regista di Hitch, lui sì che capisce le donne, una divertente commedia ricca d'azione, pubblicato grazie a Sony Pictures Home Entertainment non solo in DVD ma soprattutto in Blu-ray, quest'ultimo di qualità superiore, doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano-inglese. Per gli extra segnalo 17 minuti sulla realizzazione del film e un interessante e divertente focus sulle location dove il film è stato girato. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. A presto, un saluto. E allora noi con Claudio Pofi e con le segnalazioni in DVD e in Blu-ray abbiamo chiuso la puntata della nostra Rosa Purpurea, che torna sabato prossimo alle 18 e come sempre in replica la domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.